parole e dammi la forza per cancellare ricordi ormai spenti, sepolti in questo mare che in fondo lo sento mi lasciano annegare. Non c'è più niente fra di noi, o forse non c'è stato mai. Potrei dirti 100 volte che non è mai abbastanza lasciare che i ricordi si infrangano in un'onda. Potrei dirti che fa male, ma non basterà fermare quello che i tuoi occhi vogliono cancellare. Non chiedo perdono per quello che non può tornare. Conservo parole e lacrime. Adesso distanze ci vogliono lasciare. Perduti, distanti, dove non si può tornare. Se non c'è più niente fra di noi, o forse non c'è stato mai. Potrei dirti 100 volte che non è mai abbastanza lasciare che i ricordi si infrangano in un'onda. Potrei dirti che fa male, ma non basterà fermare quello che i tuoi occhi vogliono cancellare. Abbastanza lasciare che i ricordi si infrangano in un'onda. Potrei dirti che fa male, ma non basterà fermare quello che i tuoi occhi vogliono cancellare.